24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Forza, Vincino, sei in piedi per l'inno britannico? Eccoci. Sei in piedi? Per quale? God save the Queen, dai, c'è Gasparri che ci ha creato un casino, una guerra internazionale, dobbiamo rimediare, su. Gasparri è terrificante. Puoi cantarlo anche, perché... C'è Gasparri che ci ha creato, ci ha buttato praticamente, sembravamo le Falkland ormai, rischiamo un'invasione britannica. Ma lui è rimasto al 41, al 40, al 1940. Mamma mia, ragazzi. Lui è la sua parte politica, come dobbiamo, dire. Dobbiamo rimediare. Ma abbiamo già rimediato più volte, che dobbiamo fare di più? No, dobbiamo chiedere scusa agli inglesi intanto, in nome di Gasparri, mi sento di chiedere scusa, scusate cari inglesi. Ma già l'abbiamo Gasparri, nel 43, nel 45, l'abbiamo proprio messi all'angolo, fuori di tutto, no? Poi se non fosse stato per questo... Insomma, quello là, che ne so, quello là che l'ha ripresi nel 94, l'ha raccattato, ma è una cosa, guarda, è terrificante, lo so, vabbè, e che dobbiamo io fare? Amo gli inglesi, tu amo, bravo, bravo, dobbiamo rimediare, e anch'io amo gli inglesi. Io ho vissuto in Inghilterra un sacco di tempo, era professore di inglese, io abbiamo molta... Viva gli inglesi, viva gli inglesi, viva gli inglesi. I Rolling Stone, i Beatles, tutti. Tutti, tutti. Assolutamente. Ma i Rolling Stone non sono americani, no, Mick Jagger. No, sono inglesi. Viva gli inglesi. Viva gli inglesi, vabbè, i Beatles, questi siamo tranquilli, sono inglesi. Viva gli inglesi. Allora, 6:35 minuti, mamma mia Gasparri, che guaio che ci ha combinato. Ma sapete che ha fatto? Sapete che ha fatto, sì, il buon Gasparri. Vabbè, ve lo dico tra poco. Intanto saluto Miriam Lucchetti in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Saluto, apriamo il Parlamento, dai, che si apre oggi la 59esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Il caffè volentieri a tutti quanti. Dai, anche la 59esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Saluto Federico Novella. Buongiorno. No, ciao a tutti. Ma che lo fai adesso più mattino 5? No, basta. No, è finito, mattino 5 è finito. E che fai? Sì. Tu però vai lì alla sbarra di Mediaset per vedere se ti aprono a quest'ora. Io faccio dei lavoretti estivi adesso, diciamo, sì, sai, cameriere, mi mantengo così, barista. No, faccio il TG e poi a settembre vedremo. Ah, vabbè, insomma. Un po' di giardinaggio. Esatto, bricolage, cose di questo tipo. Viva gli inglesi, dillo anche tu che Gasparri ci ha creato una guerra praticamente. Sì, ho visto che ha avuto delle paroline gentili per tutto il popolo anglosassone. Esatto. La lo frase, vuoi ricordare tu cosa ha detto? La frase di Gasparri su Twitter: evviva contro quei boriosi coglioni degli inglesi. Così su Twitter. Vabbè. Però c'è da dire che, insomma, cioè, a parte a Londra, il popolo inglese che ha questa fama di gentleman, invece lo sai, tu sono dei profondi bifolchi gli inglesi. Vicino, ci stanno facendo la guerra, ma come dei bifolchi. No, Vincino, non è così. No, assolutamente no, anche in campagna loro hanno molto stile, molto, come molto dire, no, delle giacche in tweed, dei assolutamente. Comunque devo dire che dopo sono che... meravigliosi. Sì, ma e soprattutto è stata la giornata, sì. La giornata anche io... le inglesi. Vabbè. Io mi rallegravo, smettila. Io mi invece travestiti gli inglesi di ogni genere a me. Io mi rallegravo la giornata ieri leggendo i Gasparri che rispondeva a tutti coloro che lo insultavano, e a uno gli ha detto pua, a un altro querelato, poi patetico, smetti la droga ti fa male, cespugli di imbecilli, andate in discarica. A un certo punto ha dato della sciampista alla ministra degli esteri Mogherini, ma una roba, ha perso la testa clamorosamente. Su Twitter Gasparri non le manda a dire a nessuno, risponde a tutti. Certo, a tutti. A un certo punto gli ha scritto Wired Italia, la rivista, e lui ha risposto: Wired, non so chi sia, per viltà vi celate dietro l'anonimato. Gasparri, Wired è la rivista, mamma mia, Gasparri. E poi chiamato dalla stampa ha detto: ma sì, ma vi ve la prendete col mio Twitter, ma ci sono altri problemi in Italia. Caro Federico, ce ne sono altri di problemi in Italia. Qua siamo allagati totale qua a Roma, non so tu, ma io non sono potuto andare a comprare il giornale perché c'era l'androne totalmente allagato. No, vabbè, ma qua Federico, la mia strada allagata. Ti rispondo come farebbe Gasparri, qui siamo nella civiltà e quindi è tutto asciutto. Esatto. Ho capito, mi hai presa la gasparrite, scusa, ti volevo. Come dire, è una malattia infantile del perché... Hai sentito Federico, ci è rimasto male, Vincino ha detto, perché qui dove siamo? Non siamo nella civiltà. Ci è rimasto un attimo. Non so quale sia la situazione adesso sul raccordo anulare, come siete ancora con l'acqua alla gola? Giù. Non lo so. Guarda che stanotte, tra tre ore fa, sì? C'è stata una cosa terribile. Presente, hai visto quella foto di quella nuvola sopra Ostia, tutta piena di fulmini? Ecco, era sopra il Colosseo, esattamente, stanotte, tre ore fa. È crollato? Non è crollato, però come dire, dico, androne, casa mia tutta allagata, non sono potuto uscire a comprare i giornali. Sotto è colpa degli inglesi, è colpa degli inglesi. Allora, caro Vincino, se non sei riuscito ad andare a comprare il giornale, stavano gli inglesi, stava Gasparri al governo, che inglesi. Ti informo, caro Vincino, visto che non sei riuscito ad andare a prendere il giornale, che nel Corriere della Sera c'è un editoriale di prima pagina di Michele Ainis. Conosci? Conosci? Certamente. Conosci? Che dice? Tuo compagno di poker, dice che le riforme sono necessarie, che c'è un grosso paio di forbici che Renzi impugna per tagliare via le prefetture, via i comuni, giusto, decespugliare, capito? Assolutamente. Qualsiasi... ha tagliato tutto, ormai non abbiamo più posizione, niente, Grillo messo là, pietà, ti prego, riceveci pure a noi questa cosa. E gli presenta quella idiozia totale della proposta di legge elettorale dei 5 Stelle, che è la più cretina al mondo, quella con i voti positivi e i voti negativi. Eccolo 8 lì. Voti negativi levano, ma una cosa, quella che è fatta apposta per riconoscere i voti. Ecco, allora... se io voto positivo te e negativo novella, solo io posso aver votato questo qua. Va bene, allora voglio passare un'altra bella giornata a Vincino. Allora scrivo subito su Twitter: la proposta elettorale del Movimento 5 Stelle è l'imbecillità totale, è la più... fatta apposta per riconoscere i voti. Va bene. Ho capito, tra po' lo sto scrivendo. È intanto Federico, tu di qualcosa, Federico, vai avanti tu, conduci tu, tanto tu sei... magari visto che i tempi sono cambiati, i grillini vogliono trattare anche con Vincino, perché ormai c'è grande disgelo, no? Allora, è di una imbecille, scusa, non farò sconti, aspetta che col BlackBerry si fa un po' fatica a scrivere. Ma dai che con il raccordo allagato c'ho già un sacco di problemi, Vincino a Roma, non mi crea né altri. No, subito. Il raccordo, no, io sto al centro per ora di Roma, no, il raccordo non ci vado, guarda, uno lo evita, chi lo conosce lo evita il raccordo. Manco riesci a uscire di casa, quindi... C'è il rischio che i grillini lo vadano a trovare sotto casa, incastrato. Mi sturino la strada. Allora, eccolo qua, aspetta, l'ho messo, il Vincino a 24 metri, la proposta elettorale del Movimento è di un'imbecillità totale. Trac! Esatto. L'ho messa in rete, sei su Twitter. Ma poi la cosa, quella, l'hanno scritta in rete con due professori universitari. due prove, ma dico, conoscendo poi il livello dei professori universitari italiani, peraltro, no, ma due, ma che ci faccio con due professori universitari? Cioè, lo capisco, un ignorante come Di Maio può, ah, c'è un professore universitario con noi, ah, ah, ah. Poi Grillo, vabbè, che quello ma non ha mai detto, la terza ragazzi. Elementare si è preso Grillo, o la quinta, non lo so. Vabbè, vabbè, allora, sentite Grillo, comunque, cosa, sentite, mai, sentite Renzi, no, perché il tema è questo, Renzi dice lo streaming, siamo noi che lo chiediamo al Movimento 5 Stelle. Pronti a discutere con tutti, io credo che l'accordo che abbiamo siglato regga e credo che se la Lega e Grillo vogliono sedersi intorno a un tavolo sono i benvenuti. Magari stavolta lo streaming lo chiediamo noi, perché è bene che non ci siano né patti segreti né giochini strani. Capito Federico Novella, libetino, sì. Da libetino a colui che deve in qualche modo essere, no? Sì, no, mi chiedo perché lo streaming bisogna farlo per forza con Grillo e con Berlusconi no, per dire. Cioè, perché loro lo vogliono e questo lo anticipa, no? Sì, forse perché non si fida Renzi, no? Magari fa anche bene a non fidarsi. Ma vi ricordate però... l'ultima volta? Ti lo ricordi l'ultima volta che su streaming? Sei vecchio, tu sei un vecchio. Sì, no? È stato un grande spettacolo di cabaret sostanzialmente, più che un accordo politico. Però cioè, è una grande notizia questa, no? Potrebbe essere una grande rivoluzione nel partito. Adesso però c'è il problema della credibilità di Grillo, perché non è che Grillo oggi può definire Renzi Lebetino di Firenze e domani un leader legittimato dal voto. È il popolo della rete che fa con questi volta faccia. Vuoi che faccia passare una brutta giornata anche a te? No, il popolo della rete farà la scelta migliore, stavo per dire. Il popolo della rete ovviamente non sbaglia mai. No, effettivamente però è da capire, cari amici del Movimento 5 Stelle, quelli che mi perseguitate con insulti ma anche perseguitate vicino, ma che ne pensate, insomma, da libetino di Firenze a quello con il quale si può, no, chiacchierare amabilmente? Vincino, una bella conversione però, Totalmente, guarda, siccome poi in settimana esce il mio libro sulla cavalcata di Renzi, su come in quattro mesi conquistò tutta l'Italia, saranno tutti là a comprare. Quando è che esce? 5 euro in edicola a fine settimana. Tutti i grillini, a fine tutti settimana. Tutti i grillini. Cairo Editore è l'unico editore libero in Italia. che non è banchiere, che non è così. Io sono obiettivo, non è che. No, infatti, Vincino, obiettivi. Allora, obiettivo. Venerdì ritieniti già invitato, così parliamo un po' del tuo libro. Va benissimo. Ovviamente, grazie. Quelli sono finiti, i grillini sono finiti, quella è la resa definitiva, là. Hanno chiesto la senza condizione. No, adesso non esagerare. Come l'Italia dopo i mondiali, sì, li fanno con i co-belligeranti, con i riformisti, danno un contentino. Non esagerare, dai. E che è stata, scusami. Abbiamo sbagliato tutto sinora, così, come la vogliamo dire? No, non lo so. Altre parole, pietà, perdono. Pietà, perdono. te lo vedi Federico, Beppe Grillo si siede da Renzi, dice pietà, perdono. Sì, non lo so. Esatto, non so cosa dobbiamo aspettarci da questo streaming, però non lo so, potrebbe anche qualcuno che pensa che sia una grande bluff questo poi. Cioè per far vedere che Renzi rifiuterà tutte le proposte, perché in effetti adesso non voglio sbilanciarmi come fa Vincino, però la proposta di legge elettorale del Movimento 5 Stelle è un po' bizzarra, è un po' bizzarra. Allora potrebbe essere un bluff per dire, lo vedete, è già fatta la legge elettorale, vedete, Renzi vuole trattare solo con Berlusconi. Sì, ma infatti in retroscena sono già questi che Renzi dice non ci casco mica in questa trappola, la loro legge elettorale è veramente ridicola. Comunque andiamo a sentire le informazioni sul traffico, perché poi ci sono altre cose. Per esempio Salvini è andato nella Sicilia di Vincino, nella Sicilia di Vincino. 24 mattino. Era un voto d'amore, la spada è nel cuore, puoi toglierla tu. Sei bravo, in questo momento sei bravo, adesso che il vento ti porta qua. Milan, io non so se non è chiaro ai senatori del PD, i 14 che si sono autosospesi, Mineo e Giannino Chiti. Il popolo, quando vota il 41% una persona che sia Matteo Renzi, significa essenzialmente che vuole determinate cose. Io voglio le riforme, perché sono 20 anni che ciarlano. Vorrei ricordarvi che Renzi ha preso i voti per il suo partito, non per il PD. È Renzi il partito che vince. L'avete voluto Renzi? Tenetevelo! Ah no, aspetta, non l'ha voluto nessuno Renzi. Boh, ciao. Sono arrabbiata, ma arrabbiata dire poco. Allora, questi nobili signori che si sono appropriati del denaro pubblico, mentre la gente si suicida, le cui case sono state requisite perché non riescono a pagare il mutuo, io lo obbligherei a restituire il maltolto e le loro supercase, superiotte, eccetera, li metterei a disposizione di tutti coloro che non hanno una casa e che dormono in macchina, giusto? Perché magari sono gli stessi che la domenica vanno a sbattersi il petto in chiesa, falsi, ipocriti, ladri fottuti. Ti sento tutte le mattine, vorrei solo dirti che è ora di cambiare il nome al tuo bar. Io direi di fare Bar Boom, ormai siamo a quel punto lì. Ma guarda che Bar Boom è uno dei nomi che pensavamo all'inizio, eh? Chi è che ride? Federico? No, Salvini forse lo chiamerebbe così. Bar Boom, sì. Salvini ieri è andato a Maletto, in provincia di Catania, dove la Lega ha conquistato il sindaco, caro Vincino. Il sindaco è della Lega, in provincia di Catania. È apparso, minchia Salvini è! E tutti a farsi selfie con Salvini, hai capito? Li stanno conquistando, lentopede, eh? Che ci possiamo fare? Ma già è successo tanti anni fa, come dire, non, vennero i normanni dal nord. Adesso. Non, però per i primi 200 anni dovevano uscire in 300 dalla città per andare da una città all'altra, perché arrivati nelle campagne se li mangiavano tutti proprio. Cioè i leghisti finiranno così, dici? I leghisti di Maletto, andate in giro 300 alla volta. Perché esatto, sennò... perché poi sono gli arabi nella campagna là. E comunque Salvini qui. Allora vi devo far sentire una chicca. Sapete che Orfini è il nuovo presidente del Partito Democratico? Ma sì, chi è che ride? Cosa c'è, Vincino? Aspetta che ci crede. Qua a Luna hanno intervistato per questa cosa di Grillo sia Renzi il TG5 sia Orfini il TG1. Ma Federico, era una cosa proprio... Federico, fai qualcosa, perché Vincino mi rovina, mi distrugge i rapporti con tutti. Ma guarda, te l'ho disegnato un sacco di volte, poi te lo mando. Va bene, mandami Orfini. Federico, Faccina, l'ho beccato all'inizio. Ho capito, ma che c'ha Orfini secondo te, Federico, che è Vincino? Orfini è un presidente nel piano delle sue funzioni, giovane, insomma, allora, non so quanto cosa abbia contro Orfini. Ma non lo so, ma c'è tutto. Non lo ritiene all'altezza, forse? Forse non lo ritiene all'altezza, non lo so. Ma cioè, sai, tra quelli della minoranza, come dire, ce n'erano anche meglio là. Comunque, era il marzo, stumpo, bello, certo. Serio, solido. Vabbè, è così Vincino, vabbè. Allora, era il marzo 2013, pieni giorni in cui Bersani stava per formare il governo, cercava di formare il governo. Sentite Orfini chiamato da noi. Ma l'idea che spunti Renzi come ipotesi addirittura adesso è un'idea peregrina, è un'idea folle. Ma adesso in che, per far cosa, come premier incaricato? Certo. Sì, penso sia un'idea folle, non credo, ma nel senso che penso non la prenda in considerazione Renzi, non la prende in considerazione Napolitano, non mi sembra una cosa, diciamo, nell'agenda dell'oggi. Vabbè, Vincino, era il marzo 2013. Lungimirante. No, ma che c'entra? Dai, uno che non capisce un cavolo di politica. Ma dai, ma era il 2013. Bersani aveva perso le elezioni, Renzi era l'unico serio vincitore che c'avevano dentro il PD e lui, come dire. Ma infatti c'è stato Letta, c'è stato tutto il governo Letta. Infatti Letta è stato un disastro che ci ha spostato di più fino a quando... Chi se lo ricorda più Letta, eh? Dov'è Letta? Dov'è? Tutti rimpiangiamo Letta, ma

E di recente anche Berlusconi aveva detto non c'è più un soldo nel partito, si rischia di licenziare le persone e soprattutto sapete che da quest'anno si può dare il 2 per 1000. Cari cittadini, darete il 2 per 1000 ai partiti? Che ne pensate? 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Voglio salutare il deputato nonché tesoriere del Partito Democratico Francesco Bonifazi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Senta, onestamente, lei lo darebbe il 2 per 1000 da cittadino al Partito Democratico o anche a qualche altro partito? Io l'ho già dato in realtà, credo sia un metodo intelligente. Noi abbiamo fatto una scelta dolorosissima dal punto di vista, dall'ottica della politica dei partiti, che è stata quella di volere l'abolizione del finanziamento pubblico. È evidente però che per far vivere un partito qualcosa o qualche forma di finanziamento ci debba essere. Quindi lei il 2 per 1000 l'ha destinato al Partito Democratico. Va bene. Per lei era gioco facile, diciamo. Diciamo di sì, era un obbligo. Quasi un obbligo. Senta, ma è vero che il bilancio nel 2013 del PD è con 10 milioni di buco? 10 milioni e 8 per l'esattezza. 10 milioni e 8. Ma come mai? Dove finiscono tutti questi soldi per i partiti? Ma l'analisi che abbiamo fatto è stata molto molto puntigliosa. L'idea che ci siamo fatti è che c'è stata un'eccessiva onerosità nelle forniture, nei servizi, a un certo punto c'è stato anche un aumento delle sedi e quindi degli affitti corrispondenti che incidono in maniera pesante sul bilancio. E in più un eccessivo costo della politica. In passato spesso e volentieri la segreteria nazionale, cioè i componenti politici che compongono la segreteria del segretario, erano remunerati, avevano un vero e proprio stipendio. E quindi si spendeva più di 1 milione di euro tra tutte le iniziative della segreteria, anche di natura politica, ma c'erano all'interno anche stipendi. Dice un po' troppo, ma infatti sui giornali è apparso anche questo articolo nei giorni scorsi, cioè che voi avete fatto un'indagine interna sui conti del PD e addirittura c'è una persona, Davide Zoggia, che è stato definito un idrovora per tanto quanto ha drenato di conti, nel 2012 avrebbe risucchiato per sé un terzo delle spese del partito destinate alla segreteria, e ce lo può confermare? Ma senta, sinceramente è uscito su un giornale, è un'indiscrezione, non so neanche, io non sono stato a guardare chi percepiva, se c'era chi prendeva di più o di meno. Credo sia sbagliato il concetto, chi presta la propria attività nell'ambito della segreteria nazionale non ha bisogno di uno stipendio. Abbiamo tagliato, pensate, da 670.000 euro previste solo per la segreteria nel 2012, abbiamo tagliato a 80.000 euro quest'anno per i rimborsi. Senta, lei gli ha dato il 2 per 1000, ma le chiedo perché un cittadino dovrebbe finanziare i partiti con tutto quello che legge, no? Anche legge i presunti scandali, le presunte corruzioni che sono quotidiane sui giornali. Io credo che la politica in questo momento stia affrontando il tema della propria credibilità. L'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti è stato uno dei primi tasselli. Ora faccio un esempio, non è politica di partito, ma riguarda più la pubblica amministrazione, i tetti agli stipendi. Se diamo un segnale chiaro, i cittadini sono convinti che capiscono che per mandare avanti la democrazia poi alla fine i partiti esistono e servono e sono necessari. Questo senza dubbio, cioè, quindi è per mantenere in vita i partiti un finanziamento ci vuole. Qualcosa ci vuole. Chiaramente è come dire, deve essere commisurato alla capacità di attrarre, di convincere, di essere trasparente. E quindi io credo che il 2 per 1000 sarà concesso dai contribuenti, dai cittadini, in funzione della credibilità del partito che lo richiede. A questo proposito, ma è vero che lei venerdì, sempre un'indiscrezione dei giornali, venerdì parlando anche con Renzi, insomma all'interno della segreteria del partito, ha detto guardate che questo 2 per 1000 in realtà sarà un po' un fallimento, cioè non ci crede che molte persone daranno il proprio contributo ai partiti? No, credo che il 2014 sarà un fallimento per due ragioni. Uno, perché il fondo destinato al 2 per 1000 è veramente poco, cioè sarà poca la cifra destinata al 2 per 1000 per il 2014, perché è un fondo destinato che andrà a aumentare negli altri anni. E ci credo poco perché quest'anno è stata fatta davvero poca pubblicità. Credo che, non lo so, forse mezzo italiano su 10 sa che si può destinare il 2 per 1000. No, ma infatti io ne ero scarsamente a conoscenza che partisse da quest'anno, e vede, faccio... Ma anche perché la dichiarazione dei redditi non lo contiene, quell'ipotesi è un foglio aggiuntivo addirittura, quindi... La vedo completa. Per il 2014 diciamo tempi grami, però qualche domanda ancora gliela volevo fare sulla questione della festa dell'unità. Prima mi lasci presentare Roberto Giardina, che è già stato con noi, corrispondente da Berlino per il quotidiano nazionale. Ben ritrovato Roberto. Buongiorno. Perché in Germania invece come funziona, spesso si dice fate, in Germania e negli altri paesi, tu ovviamente ti occupi della Germania, c'è un finanziamento pubblico ai partiti, no? C'è un finanziamento pubblico, ma è regolato ed è molto inferiore a quello nostro, cioè ogni partito prende 85 centesimi per ogni voto che effettivamente riceve, non si contano anche gli astenuti come si fa in Italia facendo la proporzione, ma questo 85 centesimi per i partiti che prendono almeno lo 0,5% dei voti e l'1% alle elezioni regionali, sì, fino a 4 milioni di voti, dopo si prendono soltanto 70 centesimi, quindi questa è la cifra che hanno i partiti. Intanto 85 centesimi per ogni voto che arriva, qui in Italia si arrivava a 1 euro per ogni voto, ma anche contando appunto quelli che tenuti, neanche, sì, anche quelli, anche gli aventi diritti al voto, cioè anche quelli che non vanno proprio a votare. Vabbè. Ma funziona questo sistema? Qualcuno lo mette in dubbio? Perché no, dice... assolutamente funziona, perché per esempio prendiamo il Partito Liberale. Nel 2009 aveva sfiorato il 15% e a settembre scorso non è arrivato neanche al 5%, non è rappresentato al Bundestag, al Parlamento, quindi ha avuto un taglio spaventoso delle entrate e ha licenziato 500 dipendenti e l'amministratore del partito ha detto va bene, non è un dramma, risparmieremo, si vede che ai congressi del nostro partito faremo pagare la birra a chi viene. L'hanno presa in maniera molto sportiva. A proposito di pagare la birra, caro onorevole Bonifazi, tornano davvero le feste dell'unità? Di chi, ci faccia capire di chi è questa idea, se è davvero un'idea, come qualcuno dice, di Matteo Renzi in persona, chi è che ha rispolverato l'idea tornino le feste dell'unità? Allora, sinceramente è di Matteo Renzi e non è, come dire, è diverso tempo che ne parlava, in più di un'occasione, poi alla fine ha scelto l'Assemblea Nazionale per palesarlo a tutti, ma credo sia giusto. Ciascuno di noi normalmente la prima volta quando dicevamo andiamo alla festa dell'unità e poi ci riprendevamo dicendo andiamo alla festa democratica, in realtà il brand democratico sulla festa ha funzionato poco, credo sia giusto chiamarla per quella che è la festa dell'unità. La festa dell'unità, ma di chi è adesso il marchio? È vero che è di Sposetti, che è l'ex tesoriere dei DS? Mi auguro che Sposetti non abbia un'esclusiva lui come persona fisica, credo che... Cioè dei DS, certo, lui sì, essendo l'amministratore dei vecchi DS, insomma è dei DS. Credo di sì, ma credo che a parte qualche affermazione colorita che di uso insomma, di Sposetti, insomma, ci sia la massima disponibilità. Quello non è un marchio di un partito, è un marchio che appartiene a una storia politica, a una parte della politica italiana, quindi ci sarà la massima collaborazione. Cioè non è che dice che ve lo farà pagare adesso. Non glielo pagheremo, ecco. E se non lo dà, se non lo concede, voglio non dire. Siamo in grado, prenderemo degli impegni, ma non possiamo pagarlo nel momento. Non potete pagarlo. Cioè, che idea... Allora facciamo un appello pubblico. Sposetti, se sei l'amministratore dei DS, quindi del marchio della Festa dell'Unità, insomma, cedilo al Partito Democratico. Mi faccia fare quest'ultima domanda, onorevole Bonifazi. Come fa, secondo lei, il Movimento 5 Stelle? Perché è la domanda che tutti mi pongono, anche via SMS, a dire ditelo che il Movimento 5 Stelle non prende un euro. E allora sono pazzi? È facile, eppure arrivano al 20-21% quanto arrivano, pur senza prendere un soldo dallo Stato. Ma loro vengono da una struttura totalmente diversa. Noi non nel 2016 non prenderemo più niente dallo Stato e saremo esattamente parificati a loro. Loro hanno una, come dire, vengono, non hanno alcuna struttura. Noi abbiamo ereditato intorno a 200 dipendenti e quindi è evidente che abbiamo dei costi di struttura a prescindere, e quindi era necessario prevedere un decalage, a meno che non si volesse mettere nella strada un migliaio di persone che lavorano in tutti i partiti d'Italia, non soltanto nel certo. E da voi rischia qualcuno il posto? Senta, nel 2014 ho preso un impegno personalmente di fronte a tutti loro, assolutamente no, nel 2014 no. È evidente che nel lungo periodo, anche perché i tagli saranno sempre più forti, chiaro, tutto dipende da come funziona il 2 per 1000 e come riusciamo a trarre anche come fundraising un po' di interesse da parte di fette della società. Insomma, 2014 il posto è assicurato, ma poi se non arrivano soldi, arrivano entrate, qualcosa potrebbe succedere. Intanto io la ringrazio, grazie a Francesco Bonifazi, che è l'onorevole e tesoriere del Partito Democratico. Rimango Giardina, sentito, invece ci hai detto a te, lì hanno raccolto meno in un anno e licenziano i dipendenti. Insomma. Sì, poi naturalmente è possibile anche ai privati elargire, regalare delle somme ai partiti anonime fino a 10.000 euro, poi devono essere naturalmente firmate, dichiarate. E quindi per esempio la BMW e la Mercedes hanno regalato al partito della Merkel 600.000 euro e hanno dato un po' di meno ai socialdemocratici e neanche un centesimo ai verdi, perché se i verdi contestano le macchine che inquinano l'atmosfera, è chiaro, la BMW mica dà i soldi ai verdi, è tutto fissato. Poi c'è un tetto massimo che i partiti possono avere in un anno, e quindi per tutti i partiti nel 2013 è stato di 150 milioni e 120 mila euro, quindi è tutto regolato, insomma. È tutto anche scritto. Allora, dopo la pubblicità, io vorrei sapere il contributo degli ascoltatori. La domanda è questa: sapevate intanto che si poteva dare il 2 per 1000 già da quest'anno ai partiti, e sareste disposti a darli? Perché avete sentito sia il grido d'allarme, in qualche modo i conti del Partito Democratico, il grido d'allarme dell'onorevole Maria Rosaria Rossi di Forza Italia, che dice qua, dopo che Berlusconi non finanzia più il partito, bisogna trovare dei modi per sostenere i partiti, che poi sono il cuore della democrazia, al di là di qualsiasi qualunquismo e di demagogia. Oppure pensate che no, si arrangino e facciano tutto da soli, altrimenti siano destinati a scomparire, almeno finanziariamente. 24 mattino alle 8:39 minuti. Eccoci, parliamo di finanziamento pubblico ai partiti. Devo dire che molti italiani non sanno veramente di questo 2 per 1000 già da quest'anno. Addirittura siamo al paradosso. Luigi mi scrive al 349-238-6666. Ho dato il 2 per 1000 al PD, sono di 70 anni, ma il CAF non sapeva come fare. Abbiamo portato la busta sigillata in posta. Siamo a questi paradossi. Intanto voglio salutare il professor Riccardo Puglisi, che è ricercatore all'Università di Pavia e scrive anche per lavoce.info. Buongiorno professor Puglisi, eccoci. Buongiorno a lei, buongiorno agli spettatori. Allora, il clima è anche questo. Succede che su Twitter poco fa il professor Puglisi ha scritto: tra poco sarò da Lino Milan, cioè da me, a parlare di finanziamento pubblico ai partiti, e subito uno le ha risposto: ah, non sapevo professore che si occupasse di criminalità organizzata. Cioè, capite il clima, capite sì. Italiani, Puglisi è un po' così, cioè è sbagliato, per carità, ma sarà anche qualunquismo, ma prolifera, questo. Sì, a parte che subito arriva la risposta in tempo reale appena uno scrive qualcosa, quindi è divertente. Direi che a parte che oggi non è esattamente il giorno ottimale per gli italiani rispetto al pensare di donare ai partiti, visto che ci sono 54 miliardi di tasse da pagare tra tutti gli italiani, in particolare, come dice, c'è tanta roba in giro. L'idea è che se la cosa è stata sbandierata come finanziamento, abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, ma in realtà se ti do il 2 per 1000 non è che sto abolendo il finanziamento, è semplicemente che il finanziamento arriva in un'altra maniera ed è basato sulla scelta dei cittadini. Quantomeno però almeno questo, sia basato su una scelta. Io vorrei, prima di sentire i tanti ascoltatori che ci sono, tornare anche un attimo da Roberto Giardina a Berlino. Ma Roberto, ma c'è qualcuno che contesta, in Italia c'è una forte opposizione, visti anche gli scandali, a questo sistema? C'è qualcuno che in Germania lo mette in dubbio dal punto di vista etico, dal punto di vista della giustezza, oppure viene accettato? Viene accettato perché si ritiene che i partiti facciano parte dell'un ingranaggio della vita democratica di un paese, però bisogna anche ricordare che il regolamento dei partiti viene regolato dalla Costituzione, mentre da noi hanno fatto finta di dimenticarsene per vari motivi storici. Nel 1946-1948 era difficile stabilire quale fosse il regolamento democratico di un partito, quindi è chiaro che qui un partito viene accettato perché bene o male, non è che siano perfetti neanche i tedeschi, però funzionano. Sì. Io per esempio, come io pago le tasse in Germania, come berlinese pagherò circa un euro all'anno per il funzionamento locale della politica, quindi è una spesa che tutti possono accettare. Un euro l'anno? Sì, sarà 1,30 euro, adesso non mi ricordo esattamente. Ma come mai così poco? 1,30 euro? Ma dipende, credo che un assessore regionale, diciamo Berlino è una città-stato, quindi il senatore di Berlino equivale a un assessore, guadagnerà 3.000 euro al mese, non di più, non 3.000. So quanto guadagno di nostri sicuramente. I consiglieri regionali, si arriva anche con prebende, eccetera, credo sugli 8.000 o 9.000, tranquillamente. Ecco, basta dire che la Merkel guadagna, con la donna più potente del mondo, guadagna all'anno 220.000 euro, 225.000. Beh, quello credo che sia abbastanza paragonabile anche allo stipendio del Presidente del Consiglio nostro. Infatti, sì, un deputato italiano, adesso qui molti si sentono, guadagna almeno il doppio di un deputato tedesco. Quindi sui 10-12.000 euro il deputato italiano. Comunque, sentiamo gli ascoltatori. Jenny da Ancona, buongiorno. Buongiorno. Volevo rassicurare i dipendenti dei partiti perché loro stanno tranquilli. A gennaio è stata votata una legge per loro, praticamente per tutelarli, perché i poverini ne hanno bisogno. È una strana, come dire, cassa integrazione che parte dal 2016 e che non ha scadenza. Sembra più un vitalizio. Tranquilli. Prenderete lo stipendio anche nel 2015, visto che ancora c'è il finanziamento. Vabbè, diciamo, Jenny, la cassa integrazione, se perdono il posto di lavoro, tra l'altro sono persone dipendenti di partito che guadagnano a volte 800-1000 euro al mese, non è che sono... Il problema è che non scade, per gli esseri umani normali dura 2 anni, per loro non c'è scadenza. La cassa integrazione a vita, mi sembra un po'... Bravo! A vita! Ma insomma, avevo letto qualcosa, ma approfondirò, mi sembrerebbe un pochino strano una cassa integrazione a vita. Comunque la ringrazio, Jenny. Andrea Roma da Gabriella, buongiorno. Buongiorno, sono qua. Sì. Io ho fatto presente alla signorina che sapevo di questo 2 per 1000, sì, però sono stata sfrenata dal fatto che lo trovo in contrasto con la riservatezza del voto. Nel momento in cui io dichiaro che il mio 2 per 1000 lo do a quel partito, è come se stessi dichiarando per chi vota. Io voto per quel partito. Quindi questo è il motivo per il quale... Beh, oddio, sa che molti la pensano così. C'è da dire che la dichiarazione dei redditi non è che viene pubblicata, no? E data al suo... D'accordo, però è comunque una diciamo, un'ammissione. Un'ammissione, ecco, questo qui. Quindi comunque, al di là dell'uso che poi se ne può fare, e che se ne può fare a seconda delle circostanze, ritengo... Però, Gabriella, come... sul quale si può arrivare. Certo, come fare ad arrivare a un sistema in cui lei vuol dare i fondi a un partito senza dire quale partito è un po'... Infatti, non so, in teoria si ritornerebbe al finanziamento pubblico, cioè io do una quota parte, così in generale, certo. Però non ho idea, in realtà non ho la soluzione, ho soltanto il problema. No, no, ma è chiaro, intanto lei è stata frenata da questo, la ringrazio Gabriella. Professor Puglisi, ma il tema centrale è questo, molti italiani sull'onda degli scandali dicono basta soldi ai partiti, ci hanno rubato tanto e quindi non voglio più dare un euro. È un discorso al netto, ripeto, come già detto, delle demagogie. Ci vuole una forma di finanziamento pubblico oppure anche il sistema Movimento 5 Stelle può dare una linea e dire si può fare anche senza? Ma diciamo che io sono particolarmente, apprezzo particolarmente il sistema americano, che è basato su molta trasparenza e su principalmente i finanziamenti privati. Tra l'altro, rispondendo alla signora che ha parlato prima, in realtà negli Stati Uniti per ogni finanziamento che supera i $200 deve essere facilmente reperibile il nome della persona che ha donato, quindi l'idea della trasparenza, io voglio sapere che a chi dà i soldi ai partiti, da dove arrivano i soldi ai partiti, quindi la trasparenza è un tema importante se vogliamo fare un sistema basato sui finanziamenti privati. Però trasparenza, dire... trasparenza va di pari passo, appunto, come diceva la signora, del fatto che uno dichiara a chi dà i soldi e quindi... Però la democrazia, cioè la democrazia è una democrazia in cui si pensa che i cittadini diano i soldi al partito che gli sta simpatico. La questione è questa, che c'è stato dal 94 al 2008 l'esubero, cioè quanto le spese, i finanziamenti ai partiti sono stati intorno ai 2 miliardi di euro totali, le spese giustificate sono attorno ai 400 milioni di euro, c'è 1.600 milioni che sono spese non giustificate, quindi diciamo da quel punto di vista lì i cittadini hanno una qualche buona ragione di essere arrabbiati relativamente alla gestione dei soldi da parte dei partiti. Quindi evidentemente se poi si passa a un sistema che è un po' più basato sulla parte privata, togliendo la parte pubblica, allora capisco che il tesoriere del PD Bonifazi si preoccupi che inizialmente ci sia un manco di soldi. Sì, un'altra cosa, io ero dentro una commissione della Spending Review, quella capitanata dal professor Massimo Bordignon, esattamente sui costi della politica. Quindi alcune cose sono entrate nelle modifiche che sono state fatte dal decreto legge di Letta alla legge e poi modifiche successive quando successivamente per esempio sono state tolte le spese postali. Esiste un PDF del nostro report che è ancora in qualche cassetto della Presidenza del Consiglio, eccolo lì. E non solo questo, si fanno le commissioni e poi dopo si tengono nel cassetto le cose. Ci sono cose interessanti scritte lì, lo dico qua appunto essendo una... Allora guardi, ce le dice, devo dare le informazioni sul traffico, ci dice alcune proposte che avevate elaborato e che sono ovviamente rigorosamente, gelosamente custodite in qualche cassetto. Eccoci qui, allora professor Puglisi, che cosa avevate suggerito in questo tema di finanziamento ai partiti? Beh, diciamo che a onor del vero, alcune cose poi sono state incorporate nel momento in cui il decreto legge è stato convertito in legge, quindi questo bisogna dirlo. Ad esempio, alcune cose tra l'altro venivano anche dal Parlamento, una cosa per esempio che è stata tolta fortunatamente era una deduzione super generosissima per le scuole di formazione politica, quindi teoricamente... Chissà perché, il problema è che era talmente generosa che se io fossi un partito prenderei tutti gli iscritti e gli farei fare, partecipare a una scuola di formazione politica, che va benissimo, però perché ci deve mettere così tanti soldi il signor taxpayer, cioè il signor contribuente per questa cosa? Quindi questa era stata detta e poi è stata tolta. Una cosa su cui noi ci eravamo enfatizzati era per esempio la questione di anticipare la transizione. Non si capisce, già il sistema, non è che il sistema diventa, ripeto, cambia, rimane un sistema con una parte pubblica, certo. Cambia perché adesso c'è questa cosa del 2 per 1000 delle donazioni. Sinceramente la nostra proposta era di anticipare l'andata a regime, perché che sarà nel 2017, no? Più o meno. Questo mi sa che non è stato incorporato, ma in generale uno poteva avere dei messaggi, l'idea è, ma se ci sono dei contenuti di un gruppo di lavoro che tra l'altro ha lavorato anche sulle spese regionali e sulle spese provinciali, comunali, perché deve rimanere nel cassetto, perché non deve essere aperto alla... Appunto, la questione è quanto delle volte... PDF di 120 pagine. Quanto di questo lavoro di PDF di 120 pagine è stato recepito, secondo lei? Beh, una una parte è stata recepita, non è stata recepita la parte relativamente all'anticipata la scadenza. Una parte aggiuntiva che a mio parere è stata recepita è quella delle spese postali, perché sì. Si è parlato tanto del fatto, ne parlano tanto gli industriali, è un tema su cui si focalizzano molto, i sussidi alle imprese. Se al mandare le lettere ai partiti durante la campagna elettorale costa di meno, non è che i soldi arrivano da qualche parte, è lo Stato che passa a Poste Italiane una compensazione per arrivare al prezzo totale della francatura. No, ma è chiaro, intanto il clima è sempre quello, i soldi dovrebbero restituirli i partiti a noi, chiede Mario da Roma. Insomma, gioco facile su questo argomento. Sentire anche Alberto, ci chiama da Padova. Buongiorno Alberto. Buongiorno signor Milan, sono Alberto. Ascolti Giovanna, io non sapevo del 2 per 1000 per i partiti, trovo che sia molto basso il 2 per 1000, io gli darei almeno il 10, il 20 per 1000, ma di calci nel sedere, capito? Perché devono darsi da fare, devono andare a lavorare come vanno tutti gli italiani la mattina, non aspettare che gli italiani gli facciano le nozze. Ma lei non crede, Alberto, ma certo, lo chiedo a lei, anche se immagino già la risposta, ma si dice i partiti sono poi il fulcro della democrazia. Certo, come no, lo vediamo con il Mose, lo vediamo con l'Expo, quella è la democrazia che ruba. No, perché i nostri politici, i nostri partiti rubano e basta. Rubano e basta. L'abbiamo visto in questi ultimi tempi, ma voglio dire, partiamo da 20 anni fa. No, ma è chiaro, Ma guardi che il suo parere è un parere abbastanza diffuso. Mi chiedo se sia diffuso ugualmente anche così in Germania. Roberto Giardina è molto diffuso, sai, come questo parere, no, dell'idea i politici rubano. È una frase fatta abbastanza. No, qui sono luterani, c'è stata una mentalità luterana anche cattolici del sud, quindi si ammette, per esempio, la Baviera è soprannominata Amigos Land, cioè non se la prendono con noi, se l'hanno col Sud America. Sì. Però da 50 anni i cristiano sociali hanno la maggioranza assoluta, più del 50%, perché i cittadini dicono va bene, sono corrotti ma funzionano bene. E la Baviera è un paese dove la disoccupazione è ai minimi storici, la criminalità è molto bassa, che dice vabbè, tutto funziona, però qui al massimo si prendono il 10% di tangenti, ecco. Diciamo che anche qui la cioè, funziona, sì. Sì, diciamo sopra il 10% è poco tedesca, come sono percentuali tedesche, non più del 10%. No, ma questo per far capire anche con lo spaccato di Roberto Giardina che non è che non siamo noi i brutti, sporchi e cattivi e basta. In ogni caso io mi devo fermare qui, ringrazio il professor Riccardo Puglisi, ringrazio Roberto Giardina, come prima il deputato tesoriere del PD Francesco Bonifazi è stato con noi per cercare di capire cosa succede al finanziamento pubblico ai partiti. Intanto vi ricordo anche il mio profilo Twitter Alino Milan, se volete seguirmi su Twitter. Vi ricordo che stasera torno in TV con Funamboli su 7 Gold, se volete alle 21:10 potete guardarmi lì, e intanto con Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tulli ed Elisabetta Fusconi in redazione vi diamo appuntamento a domani. Peter Pescapè è sempre qui in regia, l'Alpino, a domani 24 mattino.